Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. L'assemblea annuale dell'ABI, delle banche italiane, l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Monti che ha detto l'Italia ha intrapreso un percorso di guerra durissimo e poi ha continuato, e da lì anche molte reazioni politiche, la concertazione, ossia quando il governo negli anni, decenni passati, ha sempre sentito le varie parti sociali, sindacati, Confindustria, Confesercenti, Confcommercio. La concertazione è l'origine dei mali contro cui lottiamo. In passato ci sono stati esercizi profondi di concertazione che hanno generato i mali contro cui combattiamo e a causa dei quali i nostri figli non trovano facilmente lavoro. Secca la replica del segretario della CGIL Camusso, ne parleremo nella seconda ora del programma. In apertura invece anche due buone notizie, una che riguarderà le piccole e medie imprese. C'è un accordo molto importante firmato dalla SACE con la piccola industria di Confindustria per agevolare sia da un punto di vista delle consulenze ma anche dei finanziamenti le imprese italiane che vogliono operare all'estero, consulenze in parte gratuite, sconti e quant'altro. Ne parleremo perché ogni tanto è anche importante dare, se le troviamo, delle buone notizie. E parleremo anche del prezzo del petrolio, perché come anticipato qualche settimana fa riavremo ospite uno dei massimi esperti al mondo in tema di dinamica del prezzo del petrolio. Molti di voi ci hanno scritto in questi giorni dicendo ma com'è possibile che nonostante un prezzo del petrolio basso alla pompa ci siano già stati i primi rialzi. In realtà il petrolio resta a $85 al barile. Vi anticipo già che c'è chi ritiene che il prezzo del petrolio nei prossimi anni sia destinato a scendere anche in maniera abbastanza drastica e quindi al massimo il prezzo sarà mantenuto alto in maniera artificiale, non per un'assenza di un'offerta. Le borse sono miste, nel senso che Milano guadagna lo 0,15%, Parigi perde lo 0,40%, Francoforte guadagna lo 0,19%, Londra meno 0,30%, l'America meno 0,24%. Lo spread italiano sempre alto, però 457 punti dopo l'asta dei titoli tedeschi. Tra l'altro quello spagnolo è a 538 punti. Per tornare a casa nostra, questo vuol dire che sostanzialmente noi offriamo a 10 anni un rendimento del 5,88%. Col BTP a 10 anni, la Spagna offre un rendimento del 6,69%. E ancora, dicevo, lo spread è andato a 457 punti dopo l'asta tedesca e anche, di nuovo si conferma che ci sono alcuni paesi, in primo luogo la Germania, lo dico senza nessuna polemica, che da questa crisi si stanno avvantaggiando in maniera enorme. Ossia la Germania in questo momento sta beneficiando dell'essere il paese in Europa considerato più affidabile e quindi ottiene finanziamenti non dovendo nemmeno offrire un interesse, anzi si preferisce perdere dei soldi ma prestarli alla Germania. Il tasso dei titoli di Stato a 10 anni ha un rendimento dei Bund tedeschi a 10 anni dell'1,31%, è il nuovo minimo storico. Se consideriamo che l'inflazione nell'area euro è intorno al 3%, vuol dire che mettere i soldi su un Bund significa perdere un punto e mezzo percentuale, ma si preferisce dare e finanziare il debito tedesco e quindi anche poi le imprese tedesche piuttosto che tenere i soldi in Spagna, in Italia, in Portogallo, in Grecia e in altri paesi. È una domanda buona, 6 miliardi e 4 per un'offerta di 5 miliardi. E poi la notizia che abbiamo ampiamente dato, la prima agenzia di stampa è stata Radio Corriere sulle 24 ore, la notizia che Vittorio Grilli sarebbe diventato il nuovo ministro dell'economia, ha giurato circa 20 minuti fa, 30 minuti fa, e quindi finisce l'interim di Mario Monti che aveva tenuto anche il ministero dell'economia nelle sue mani, viene dato all'ex a questo punto vice ministro all'economia, che diventa ministro dell'economia, Vittorio Grilli. Grilli, poi ne parleremo, viene da una lunghissima esperienza governativa, la sua prima è stato dal 2005 al 2011 direttore generale del Tesoro e prima ancora ragioniere generale dello Stato dal 2002 al 2005. Pensate che il suo primo incarico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze risale al 1900 e 93, anno in cui è entrato a far parte del Consiglio degli Esperti presso il Dipartimento del Tesoro. È nato a Milano nel 1957, ha vissuto dal 1986 al 1990 negli Stati Uniti, ha insegnato infatti all'Università di Yale e poi si è trasferito invece a Londra al Birkbeck College dell'Università di Londra, appunto. E quindi bocca al lupo anche al neo ministro dell'economia Vittorio Grilli. Adesso le altre notizie in breve. Vedo già molti messaggi sulle frasi del Presidente del Consiglio sulla concertazione. Ne parleremo nella seconda ora del programma. Qualunque eccesso è sbagliato, però attenzione, vediamo anche di capire cosa ha detto Monti più avanti, perché un accordo prevede una concertazione, allora nemmeno pensare che si possano fare le riforme del mercato del lavoro senza nessun tipo di consultazione. Se poi invece concertazione vuol dire far firmare gli accordi al ribasso per non scontentare nessuno, siamo d'accordo con Monti, ma dire che la concertazione tout court è stata il male di questo paese, ha garantito anche anni di pace sociale. Sono sempre un po' scettico sui manicheismi. Comunque, visto che ne stiamo parlando, facciamo sentire il Monti sulla concertazione, poi parleremo anche del resto. Il passaggio in cui ha detto appunto è il male, è l'origine dei mali contro cui lottiamo in questo momento. Esercizi profondi di concertazione nel passato hanno generato i mali contro i quali oggi noi lottiamo e a causa dei quali i nostri figli e nipoti oggi non trovano facilmente lavoro, proprio perché lo Stato interveniva in profondità a unire le parti saldando con il bilancio pubblico la differenza occorrente. E questo non può più avvenire, non solo perché ci sono vincoli europei, ma soprattutto perché abbiamo approfondito nella nostra coscienza collettiva il senso della responsabilità verso le generazioni future, che sono state sistematicamente e oggi sono generazioni che si affacciano al mercato del lavoro e non lo trovano, sono state sistematicamente danneggiate da questo modo di comporre i conflitti nel passato. Il che non significa che il conflitto sia una cosa in sé desiderabile, evidentemente. Ogni sforzo va compiuto per comporlo, ma comporlo con la profonda comprensione, e credo che i pubblici poteri abbiano un dovere didattico, di quali sono le conseguenze di soluzioni facili. Beh, c'è un passaggio che su cui è difficile non essere d'accordo. Quando la concertazione ha voluto dire che se andavano a firmare degli accordi in cui poi lo Stato, il pubblico, metteva una componente economica che poi andava ad aumentare il debito, cioè accordi che altrimenti non avrebbero avuto una loro capacità di reggersi economica, lì ha ragione Monti, nel senso che la concertazione, si può andare dagli anni 70 in poi, la concertazione in alcuni casi ha abbassato la produttività, in altri casi ha permesso un patto scellerato tra pubblico impiego ed evasione fiscale. Insomma, dovremmo tornare veramente all'Italia degli anni 70 e 80, quando insomma la Democrazia Cristiana difendeva un certo mondo e quindi lasciava correre politiche di contrasto all'evasione fiscale, e al suo tempo il PC difendeva un altro mondo e lasciava correre qualunque tipo di concezione del merito, della meritocrazia nel pubblico impiego e ai dipendenti. Ecco, il combinato disposto di queste due anime sicuramente ha generato quello che poi è stato l'aumento del debito pubblico, perché da un lato non mancavano le entrate, dall'altro mancava la produttività e i servizi, quindi. Monti ha parlato a margine dell'assemblea dell'AVI, diciamo, anzi in questo caso era l'intervento principale del Presidente del Consiglio. ha anche definito il percorso attuale dell'Italia un percorso di guerra durissimo. Sentiamo anche questo passaggio. L'Italia ha iniziato un percorso di guerra durissimo, una guerra contro i diffusi pregiudizi sull'Italia, una guerra anche contro le diffuse e un po' ciniche sottovalutazioni di noi stessi che si accompagnano spesso nella psicologia italiana a momenti di superficiale esaltazione, una guerra contro l'eredità, cioè il grande debito pubblico, una guerra contro gli effetti inerziali di decisioni prese in passato e soprattutto una guerra contro certi vizi strutturali della nostra economia, ma anche del nostro sistema sociale, perché le cose vanno molto in parallelo. Quindi una guerra, diciamo, su due fronti, un fronte estero, i pregiudizi nei confronti degli italiani, dell'Italia, alimentati, come ricordava Monti, anche da noi stessi molte volte, che siamo molto critici, molto anche incapaci di proporre il buono che c'è in questo paese, una guerra anche interna, vizi antichi, percorsi e scelte ereditate dal passato, a partire dal debito pubblico, ma non solo, che sviluppano ancora i loro effetti. C'è un passaggio che poi ascolteremo nella seconda ora, in cui Mario Monti ha detto anche che l'ex premier Berlusconi fu sottoposto a una pressione prossima all'umiliazione a livello estero. Ricordate il vertice di Nizza, quella faccia un po' da beota, se mi permettete il termine, di Sarkozy, che sorrideva, lo criticammo subito con Angela Merkel. Mi sa che sorride meno adesso Sarkozy, sorriderà anche meno la Merkel, se tanto mi dà tanto, fra poco. Sull'Italia, trattata come una specie di satellite di questi due pseudo imperi. Ecco, quell'umiliazione lì l'ha ricordata anche Mario Monti oggi, ha detto ci fu un tentativo di far cedere all'Italia parte della sua sovranità, cioè di portare noi a un livello greco con una troica che arrivava a decidere il nostro paese, e è stata una situazione sgradevole, ha aggiunto il premier. Che ha poi continuato: l'Italia è un paese che è tra i più pronti a condividere pezzi di sovranità con altri, ma credo che avendo una storia di dominazione coloniale diversa, il paese è riluttante a una cessione di sovranità su base secca. Sempre all'ABI il commento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che è tornato a dire: attenzione, noi stiamo pagando uno spread superiore alla nostra situazione economica. Visco questo aveva già chiarito nell'intervista che cito spesso al Corriere della Sera di questo fine settimana. Secondo il governatore della Banca d'Italia, noi ci meritiamo 200 punti di spread sulla Germania, quindi un 2% in più, perché abbiamo un debito più alto, non 450 punti. I 250 punti che ballano sono attacco all'euro, non attacco all'Italia. L'economia italiana è in recessione. Secondo le previsioni di consenso, che sono la media delle previsioni puntuali di esperti nazionali e internazionali, e le analisi e le prospettive valutate dalla Banca d'Italia saranno in via di definizione e usciranno la prossima settimana, ma non sono molto distanti. Nella media di quest'anno il prodotto in Italia diminuirebbe di poco meno di 2 punti percentuali. Al peggioramento dello scenario concorrono l'aumento del costo e il deterioramento della disponibilità di credito indotti dalla crisi del debito sovrano. La differenza tra i rendimenti dei titoli pubblici italiani e tedeschi è di gran lunga superiore a quanto sarebbe giustificato dai fondamentali della nostra economia. Riflette generali timori di rottura dell'unione monetaria, un'ipotesi remota che sta però condizionando le scelte degli investitori internazionali. E ha parlato anche, in questo passaggio del governatore Visco c'è un punto importante: la recessione sarà peggiore delle attese quest'anno, meno 2%, le stime iniziali erano meno 0,9, meno 1. Il motivo è restrizione del credito, quindi banche che offrono tassi alti e che comunque, aggiungo io, da un lato hanno usato il prestito di Mario Draghi per risistemarsi i conti in casa, ricomprare le loro obbligazioni, dall'altro comprano anche i titoli di Stato, e la restrizione del credito frena l'attività economica. ma dall'altro è anche importante quanto Visco ha ricordato, i fondamentali economici italiani non giustificano 450 punti di spread. Le banche cosa dicono? Sentiamo un passaggio del presidente dell'ABI, Giuseppe Mussari, che ha detto: non abbiamo alternativa all'euro, sarebbe drammatica una sua eventuale implosione. La crisi che stiamo vivendo oggi è una crisi di fiducia nei confronti dell'Europa come entità politica ed economica. Non è semplicemente la sommatoria delle difficoltà di alcuni dei suoi Paesi membri. Per questo la risposta deve essere politica, europea ed unitaria, nel senso di un'univoca scelta federale. Ci si salva solo con più Europa. Non c'è alternativa credibile di progresso economico, sociale e civile all'euro. 14 anni di euro hanno creato vantaggio per tutti i Paesi membri, anche per quei Paesi come la Germania, che hanno potuto realizzare le proprie riforme di sistema in un ambiente migliore. La Germania post-unificazione ha avuto nel cambio dell'euro un elemento di favore. Nei momenti topici la Germania e altri Paesi hanno goduto della solidarietà europea anche su altri fronti. Nel 2003 la procedura per deficit eccessivo aperta nei confronti di Germania e Francia fu di fatto ignorata. La mancata applicazione delle misure di restrizione fiscale che quella procedura avrebbe comportato creò un ambiente macroeconomico e sociale più propenso ad accettare i sacrifici poi imposti dalle riforme. Oggi noi abbiamo fatto e dovremmo continuare a fare le riforme necessarie, e per esse serve il sostegno ambientale che i tedeschi ed altri hanno avuto. Drammatici, d'altra parte, sarebbero per la stessa Germania gli effetti di un'implosione dell'euro. Allora, su questo io devo dire che sono d'accordo al 100% con il presidente dell'ABI. Insomma, l'abbiamo detto più volte, nel 2003 la Germania e anche la Francia, per primi in Europa, altro che primi della classe, per primi in Europa sforarono tutti i parametri di Maastricht, deficit sotto il 3%, quindi presero dei brutti voti, per usare l'esempio dei primi della classe, non vennero però rimandati a settembre, perché si disse, vabbè, c'è l'Italia sbagliando con Tremonti e Berlusconi, pensò che in questo modo poi un domani i tedeschi si sarebbero ricordati. E quello che ha aggiunto Mussari è altrettanto importante, perché proprio non avere punito la Germania con quello che prevedeva erano i parametri di Maastricht, quindi poi dover fare tagli più forti, permise alla Germania di fare le riforme senza avere diciamo la rivolta sociale, per essere un po' esagerati, ma comunque mantenendo un certo consenso sociale. Mentre adesso si chiede ai paesi, Grecia, ma soprattutto Spagna e Italia in questo caso, di fare delle riforme senza però avere il respiro che noi si dette alla Germania e alla Francia, cioè tagliando anche il deficit. Allora è chiaro che tu, se tagli il deficit, devi ridurre il deficit, devi ridurre le risorse, devi fare le riforme, crei una situazione esplosiva. Ne sa qualcosa la Spagna, dove oggi hanno sparato anche proiettili di gomma i poliziotti contro i minatori che protestavano. C'è una situazione di estrema tensione, perché Rajoy ha soppresso le tredicesime per i dipendenti pubblici, e questa è già una misura greca, parliamoci chiaro. Solo in Grecia c'era stata la sospensione della tredicesima per i dipendenti del pubblico impiego, ha aumentato l'IVA dal 18 al 21% e ha deciso tagli di 3 miliardi e mezzo nella spesa pubblica. Tutto bene, ma è chiaro che se alla Spagna non verrà dato più tempo, se si chiede un rientro sui parametri che non fu chiesto allora alla Germania e alla Francia, ebbè no, lo studente si tratta sempre nello stesso modo, non che un anno si evita di rimandarlo e adesso gli ex asini, i primi della classe, vengono a farci la lezione. Manda. E anche in Francia comunque François Hollande ha annunciato che si va verso un innalzamento del contributo sociale generalizzato, sostanzialmente la tassa sul welfare, mentre c'è chi sostiene che il premier francese Jean-Marc Ayrault avrebbe detto che i prossimi mesi, avrebbe detto off the record, quindi fuori da una registrazione ufficiale, i prossimi mesi saranno per la Francia terribili. Vabbè, 349-238-6666 per i vostri sms. Dite che non ho dato i titoli di borsa e avete, come spesso accade, ragione. Il migliore è Unicredit, che ha chiuso con un più 2,60%, Intesa più 2,20%, Enel Green Power più 1,40%, Ansaldo più 1,1%, Snam più 0,90%, Enel più 0,70%, la borsa chiusa invariata alla fine. Male oggi Salvatore Ferragamo meno 6,17%, Tod's meno 4,60%, Fiat Industria meno 4,30%, Mediaset meno 3,30%, A2A meno 2,5%, Finmeccanica meno 2,40%, ST Microelectronics meno 2,20%, Prismia meno 2,20%, Pirelli meno 2%, Luxottica meno 1,80%, Mediobanca meno 1,50% come Exor. Ho ancora un paio di minuti, se ce li ho, per raccontarvi qualche altra chicca sulla crisi degli altri. Oggi non ci sarà la Regione Sicilia, ogni tanto manca. Ci sarà di nuovo la Regione Lombardia, ma ci sarà anche la Germania. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, ricordate che ieri abbiamo parlato di come la Regione Lombardia spende i soldi, le sponsorizzazioni, 400.000 euro già spesi, a fine anno saranno 740.000 euro. E abbiamo fatto notare che i 3.000 euro dati per la festa dei popoli, per farne, cioè una festa che si chiama Festa dei Popoli per farne di tutti i colori, o i 5.000 euro per la maratona dell'acqua, o i 4.000 euro per l'iniziativa sui comportamenti umani, i 2.000 euro per la manifestazione Eroi si diventa, sì, a vivere nel nostro paese sicuramente, aggiungiamo noi, la manifestazione Pa el Salam, si è tenuta a Montirone, immagino sul salame. Tutto questo mentre si danno solo 3.000 euro per l'iniziativa che dovrebbe fare prevenzione per i giovani sull'alcol, o 3.000 euro per la giornata della legalità contro le mafie, ma ci sono 4.000 euro per la settimana del canto lombardo, imperdibile. Ma Nanni Svampa ce l'abbiamo anche oggi, che così magari... Ecco, abbiamo scoperto anche che potrebbe non essere finita qui, perché ci sono decine di richieste da qua a fine anno. Allora, per arrivare appunto da 400.000 altri a 740.000, la regione potrebbe spendere altri 300.000 euro, tra cui c'è la richiesta di 6.500 euro per la festa di ringraziamento alla Madonna per la protezione della valanga organizzata dal comune di Valleve nella Bergamasca. Poi c'è il comune di Cusio che chiede 5.000 euro per Fungolandia 2012. Immagino Fungolandia sia riferita ai funghi commestibili, non a malattie epidermiche. L'associazione per la tradizione e i costumi della Val Cavagna ne vorrebbe 3.000 di euro invece per appunto tutelare con questa iniziativa la tradizione e i costumi della Val Cavagna, che tutti gli antropologi da Levi-Strauss in poi stanno studiando da decenni. Meno di 10.000 euro invece sono quelli richiesti dal comune di Vigevano per il Verba Manent, un festival letterario che si terrà dal 17 al 28 ottobre. E il presidente del Consiglio regionale Fabrizio Cecchetti ha detto, per giustificare queste spese a pioggia, a mio avviso in molti casi del tutto inutili se non ridicole, i fondi erogati finora sono frutto di decisioni prese prima dell'inizio della mia presidenza, ma controlleremo. Attenzione però, questi soldi sono comunque una boccata d'ossigeno per iniziative sociali. Sì, vabbè, un applauso a Cecchetti, vai. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Oggi ce l'abbiamo anche con la Germania, strano, eh? Perché no? Attenzione, gli sprechi esistono anche nei primi della classe. Pensate che Angela Merkel ha lanciato un'iniziativa online che si chiama Dialogo sul futuro, per avere un dialogo diretto e trasparente con i cittadini e invitarli a sottoporre proposte su come adeguare il welfare o il sistema educativo tedesco. Una bella iniziativa, no? Un dialogo con i cittadini. Tre incontri pubblici tra febbraio e marzo, la pubblicazione di un sito web in cui i cittadini potevano dire la loro. Allora, secondo quanto riferisce l'opposizione, in realtà era una forma di campagna elettorale implicita, perché ha speso 1.500.000 di euro, poi 160.000 euro in più del previsto sono stati spesi per andare incontro ai visitatori sul web, altri 100.000 euro aggiunti per due degli incontri pubblici, quindi 300.000 euro più del budget. E la cosa interessante, questo è per dire che un po' delle volte tutto il mondo e il paese, è che la società che ha gestito questo appalto da 1.800.000 euro è di Thomas Heilmann, ministro della giustizia del Land di Berlino, esponente della CDU, grande sostenitore di Angela Merkel. Angela Merkel, se vuole fare queste cose fatte bene, la mandiamo in Sicilia, e dove lì c'è una tradizione storica, quella sì, da tutelare con un festival apposito, il Festival dello Spreco. Ma andando avanti, si scopre anche che Klaus Regling, incaricato ieri dall'Eurogruppo di guidare il fondo di salvataggio per i paesi in difficoltà, l'ISM, ebbene, intanto ha salvato se stesso, che è la prima operazione, anche questa molto italica, perché lo stipendio di Regling sarà di 324.000 euro lordi l'anno, due terzi in più di quanto guadagna la stessa Angela Merkel, che guadagna 190.000 euro. I membri del fondo di salvataggio si sono salvati in primo luogo anche loro, perché guadagneranno, sono circa 75 persone con stipendi tra i 65.000 e i 170.000 euro. E allora mi viene in mente Leporello nel Don Giovanni. Notte giorno fa di quel, per chi non la sacra è, pioggia e vento sopportar, mandar male, mal dormir. Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, no, no, no, no, no, non voglio più servir. Meno 0,05, una borsa oggi debole e incerta, tra più 0,30, più 0,9, lo stesso vale per Parigi, che comunque ha chiuso peggio, è meno 0,60, Francoforte più 0,20, Londra meno 0,07, e non poteva essere altrimenti, essendo Londra, l'America meno 0,21%. Come sempre con Radio Cori sulle 24 ore, ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Nell'attesa dell'assemblea di Impregilo di domani, abbiamo parlato ieri con chi rappresenta Salini, il gruppo Gavio ci ha fatto sapere che parlerà dopo l'assemblea del 12. Oggi Impregilo è stata più calma, meno 0,50%. Si è mossa bene invece Unicredit il giorno dopo la ristrutturazione, più 2,27%, ma bene anche Intesa San Paolo, lì forse un po' lo spread ha aiutato, prego. Sì, sicuramente, lo spread oggi è sceso attorno a 450 punti base, e quindi, come noto, il sistema del credito italiano, in particolare le banche più grandi come Intesa e Unicredito, hanno giovato di questo lieve, diciamo, restringimento del differenziale. Mentre Mediolanum si è avvantaggiata, che bene anche Mediolanum, più 0,50, di una raccolta buona, no? Sì, buona a giugno, in particolare, diciamo, sulla raccolta netta di fondi e gestione, che è una sottocategoria della raccolta più complessiva di Banca Mediolanum, ha raggiunto quota 275 milioni, che è il miglior risultato mensile a giugno degli ultimi due anni, che in tempi di crisi non è male. Allora, tra l'altro, ha guadagnato oggi anche Snam più 0,80, Ansaldo STS più 1,22%, sempre sulle ipotesi, diciamo, che Finmeccanica possa cedere qualche gioiello, Enel più 1,37%, ha perso, e non poco, Ferragamo. È vero che viene da settimane intere di crescita, però il lusso oggi non si è mosso bene, Ferragamo meno 6,5%, TOZ meno 4,70%, Luxottica meno 1,60%. No, la responsabile, tra virgolette, è Burberry, che oggi ha annunciato un incremento delle vendite nel primo trimestre, che per loro è il nostro secondo trimestre, perché il loro esercizio parte di fatto ad aprile, e un incremento dell'11%, che era comunque leggermente inferiore rispetto a quello che si attendevano gli analisti. Questo fu, in alcuni operatori, diciamo, ha instillato il dubbio che forse insomma, il grande momento della moda potrebbe essere meno brillante di quello che fino ad oggi ci eravamo immaginati. Quindi, come anche dicevi giustamente tu, c'erano stati grandi acquisti su questi titoli, e è stata la seduta in cui qualcuno ha preferito realizzare quanto guadagnato finora. Anche Tozza ha perso il 4,7%. Eh sì, oggi non ce n'è per il lusso. È chiaro che se si ferma tutto, si fermano anche i consumi della parte lusso, che pur hanno avuto sempre dinamiche in questo periodo abbastanza anticicliche. Ancora Mediaset di nuovo pesante oggi, meno 3,26%, e siamo a un meno 10% in una settimana, se ho ben visto. Sì, da quando, insomma, è stata resa nota la raccolta pubblicitaria del primo semestre, che si è assestata su un calo del 10%, il mercato è tornato a, diciamo, a punire severamente il titolo, che oggi paga anche, diciamo, alcuni report di alcuni analisti che consigliano ulteriormente di vendere, di servire l'azione sul mercato. In più poi alcuni esperti del settore osservano che la società è attiva nei due paesi che in Europa stanno pagando di più la crisi, fondamentalmente, che sono Spagna e Italia. Vorrei parlare dell'export, perché più volte abbiamo ricordato che l'export sia l'unica voce in questo momento che tiene in piedi la produzione industriale italiana, altrimenti se ci basassimo sulla produzione interna, auguri. Ebbene, c'è un'iniziativa che riguarda poi chi ancor più nello specifico è l'asse portante di questo export, ossia le piccole e medie imprese. Sì, dicevo buona notizia, perché ogni tanto riusciamo a trovarle le buone notizie, e nel caso specifico riguarda le piccole e medie imprese italiane, quindi quelle che sorreggono il tessuto produttivo di questo paese, che hanno avuto anche buoni dati, continuano ad avere buoni dati sull'export, ma che sono anche oggettivamente quelle più sottoposte ai venti, se non tempeste, della crisi. Perché dico buona notizia? Perché ieri la SACE, che è il gruppo assicurativo finanziario di proprietà del Tesoro, 100% del Tesoro, e si occupa di gestione del credito, ha firmato un accordo con Confindustria, con la piccola industria di Confindustria. Spesso abbiamo avuto ospite il presidente Vincenzo Boccia. Un accordo che va proprio nella direzione delle piccole imprese, allargate a un concetto europeo. Ossia, detto in una parola, l'obiettivo è rendere più facili i finanziamenti, gestire meglio i propri crediti, ridurre i rischi di mancato pagamento, avere anche una consulenza di carattere legale e di conoscenza verso i nuovi mercati. La SACE infatti assicura sul rischio credito le imprese quando vanno all'estero, ha 180 paesi coperti, 33 miliardi e mezzo di operazioni assicurate. E tra l'altro anche un ottimo utile, nel 2011 è stato di 184 milioni di euro. Dicevo, l'iniziativa con la piccola industria e Confindustria riguarderà proprio le piccole imprese, intese piccole e medie, intese con le imprese con un fatturato sotto i 50 milioni di euro o con meno di 250 dipendenti. E il servizio, chiamiamolo così, offerto riguarderà 6 linee di prodotto, con condizioni commerciali vantaggiose. Di questo, proprio della parte concreta, vorrei parlare con l'amministratore delegato della SACE, ossia il dottor Alessandro Castellano. Buonasera. Buonasera. Dunque, 6 linee di prodotto. Mi faccio un po' il promotore, diciamo, di questo vostro accordo, perché è chiaro, la finalità è quella di agevolare il credito per chi ha più difficoltà sul credito in questo momento, come le piccole e medie imprese. Quali sono queste 6 linee e quali saranno i vantaggi, diciamo, commerciali per i piccoli imprenditori che aderiscono a Confindustria? Allora, diciamo, la risposta che noi stiamo cercando di dare alle piccole e medie imprese in questa iniziativa, che ha messo in un unico contenitore tutta l'offerta commerciale che abbiamo verso le nostre aziende. In particolare queste 6 iniziative possono essere riassunte in quello che riguarda: vuoi assicurare la tua vendita all'estero, hai bisogno di export, vuoi finanziare i tuoi progetti per l'internalizzazione, hai bisogno di funding, cioè hai bisogno di provvista per il tuo circolante o per gli investimenti, vuoi fare un investimento in un paese a rischio, vuoi fare un'acquisizione per cui hai bisogno naturalmente di una polizza che garantisca questo investimento, vuoi partecipare a gare d'appalto in Italia o all'estero e per cui hai bisogno di cauzioni per i tuoi performance bond, per i tuoi bid bond, vuoi progettare il tuo fatturato globale per cui hai bisogno di una semplice polizza di assicurazione del credito, o come ultima novità vuoi smobilizzare i tuoi crediti, in particolare verso la pubblica amministrazione, e ti rivolgi al nostro prodotto factoring. Questo è il riassunto delle 6 proposte concrete che offriamo alla nostra clientela. Per quello che riguarda invece alla condizione commerciale, in ognuna di queste proposte abbiamo cercato di associare in qualche modo un vantaggio o una novità per indurre le aziende a avvicinarsi alla SACE. Per cui, per quello che riguarda l'export, abbiamo proposto uno sconto del 10% sul premio quotato a seconda della classe di rating. potremmo dare tre pareri preliminari gratuiti su quello che naturalmente sono le esigenze delle aziende su una certa vendita, e abbiamo messo nessuna spesa istruttoria per tutte le aziende che, come ricordava lei, sono sotto 50 milioni di fatturato e con meno di 250 addetti. Per quello che riguarda invece il prodotto funding, cioè quello per gli investimenti, avremo uno sconto del 50% sui premi quotati e avremo anche qui nessuna spesa istruttoria. Per gli investimenti proponiamo lo stesso 50% sui primi due premi, per i primi due anni, mi scusi, pareri preliminari gratuiti anche in questa operatività, e anche in questa associamo nessuna spesa istruttoria. Per le cauzioni abbiamo anche lì degli sconti, a seconda della classe di merito di rischio, abbiamo dei pareri preliminari gratuiti anche in questa situazione, e per il factoring associamo anche qui uno sconto del 20% sulle spese istruttoria, condizioni più vantaggiose rispetto al passato, e in tutte le classi di prodotto cercheremo di dare risposte nel, diciamo, giro di una settimana per l'accettazione della proposta. Quindi export, la vostra attività classica, quella dell'assicurazione sulle vendite all'estero, ma anche il finanziamento, quindi la capacità di finanziare progetti all'estero o la conoscenza del paese, quindi la conoscenza del paese in cui si va a investire, le gare d'appalto, lì le ricordava, le cauzioni, la protezione del fatturato globale, dove c'è appunto la linea su questo, il factoring, lo dico a tutti quelli che sono in ascolto, è il modo in cui sostanzialmente tu giri. Se hai dei crediti che vanti nei confronti della pubblica amministrazione, li giri sostanzialmente, in questo caso alla SA. Li smobilizzi, perché, certo. Se ti è rotto, lì siamo in grado naturalmente di anticipare. Di anticipare il pagamento, esatto. Chiaramente con una piccola differenza. Però mi sembra che il filo rosso qui riguardi o gli sconti praticati dal 10 al 50% o addirittura i pareri gratuiti. L'obiettivo... I tempi anche, cioè le risposte entro una settimana. Tra l'altro avete anche un numero verde, un indirizzo email, perché vedo già gli sms che chiedono di poter... Abbiamo un numero verde 800 269 264, e abbiamo naturalmente un'email dedicato, sace.it, PMI non stop, che a cui si può rivolgere, c'è una parte dedicata del nostro sito. Se mi consenti, l'altro elemento che, diciamo, abbiamo posto l'attenzione per cercare di dare alle aziende risposte in tempi veloci, anche quello del paperless e del web. Cioè, il nostro sito è un sito dove oggi, attraverso questa iniziativa PMI non stop, c'è un simulatore, e questo simulatore è a disposizione delle aziende, che potranno individuare il paese dove hanno la commessa o dove stanno per realizzare o pensano di realizzare un contratto. In questo paese possono naturalmente andare a cliccare, a vedere la controparte che sono già affidate, in particolare quelle bancarie, da parte della SACE, e mettendo il prezzo del loro contratto e la durata richiesta in relazione alla dilazione di pagamento dalla loro controparte, possono già ottenere il prezzo che riceveranno da SACE per poterlo caricare sugli oneri relativi al loro contratto. Beh, anche questo è importante, PMI non stop @sace.it, lo ricordo anch'io l'indirizzo. Grazie all'amministratore delegato del gruppo SACE, Alessandro Castellano. Grazie a lei. Speriamo che questo servizio serva, che venga utilizzato. Prima di lasciare in GR, devo però dare e farvi ascoltare che cosa ha detto il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, alla nostra Maria Luisa Pezzali, dopo l'allarme lanciato ieri sul disavanzo di INPDAP e Super IMS. Ha detto: la sostenibilità del sistema è certificata. La sostenibilità del sistema pensionistico, sia pubblico che privato, oramai è certificato sia dalle riforme fatte fino ad oggi, l'ultima la Montifornero, che soprattutto è stato validato da tutti quanti gli organismi nazionali, Ragioneria, Banca d'Italia, internazionali, dall'Unione Europea, alle Commissioni Europee, addirittura all'OCSE. Esiste, e nessuno lo nega, tant'è che il nostro bilancio lo rappresenta correttamente, un disallineamento finanziario, cioè uno squilibrio finanziario tra le entrate e le uscite nel mondo INPS. Esisteva l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, e non è mai successo nulla, nel senso che lo Stato giustamente si fa carico anticipando queste risorse nei confronti dell'istituto. Quello che si è fatto prima sarà fatto nel futuro, nessun rischio, nessun allarme, ma problemi contabili e tecnici che non hanno nessuna ripercussione sui singoli cittadini e pensionati. Quindi questo rosso che proviene dall'ex INPDAP comporterà problemi nel pagamento delle pensioni? Assolutamente no, le pensioni sono state pagate, sono pagate e saranno pagate sempre, è un problema prettamente contabile di disallineamenti finanziari all'interno dell'INPDAP, è una questione che esisteva anche negli anni passati e lo Stato si è sempre fatto garante di questo qui anticipando le risorse, è stato fatto nel passato e fatto nel futuro, le riforme sono servite anche a questo. Ricordo che si fosse messo in collegamento invariato praticamente l'indice, bene Unicredit e Intesa San Paolo più 2,2 dopo un leggero calo dello spread italiano, male oggi tutto il lusso in Europa per via dei dati di Burberry's, Ferragamo perde 6,5, Tozzi 4,70, Luxottica l'1,60. Adesso torniamo sul tema principale, quindi assemblea dell'ABI, l'associazione che riunisce le banche italiane, dove è intervenuto il premier Mario Monti ma anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Monti ha fatto molto discutere con questa frase che poi riascolteremo sulla concertazione che sarebbe l'origine di tutti i mali che il paese ha e che minano il futuro del paese, però vorrei partire in questo caso da quello che è stato l'invito del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ha avuto anche da questo punto di vista parole non facili e non morbide per il mondo bancario. Allora parliamo dell'assemblea dell'ABI. Eh sì, perché il governatore della Banca d'Italia ha detto alle banche basta prestiti basati sulle relazioni e legami. Quindi prestiti dovuti a chi sei, che salotti frequenti, che peso politico hai, poi magari arriva il piccolo imprenditore o l'artigiano commerciante e gli si risponde no, scusami, anzi, tu devi rientrare. Sentiamo Visco. Occorre perseguire nel medio termine un più ampio accesso delle imprese italiane ai mercati dei capitali, adottando politiche di incentivi coerenti. Fin da ora le banche devono riconsiderare la validità dei loro modelli di rapporto con le imprese, soprattutto con quelle di maggiori dimensioni. Le politiche di affidamento devono essere basate sulla solidità dei progetti imprenditoriali, non su relazioni e legami che ne prescindono. Stabiliti in fase di crescita economica e di finanza favorevole, essi non sono oggi più sostenibili. Banche attente alle prospettive di crescita delle imprese, imprese a loro volta dotate di maggiore capitale e più pronte ad accedere direttamente al mercato dei capitali, sono precondizioni perché il superamento di questa crisi veda l'economia italiana avviarsi a un rilancio duraturo. Chissà a chi si riferiva il governatore della Banca d'Italia, magari al modo in cui il San Raffaele è riuscito a fare un miliardo di euro di buco con la compiacenza delle banche che gli hanno prestato i soldi. Oppure a Fondiere Assai, 1,3 miliardi di euro di buco, anche lì con la compiacenza di Mediobanca, ma non solo, insomma, no? L'importanza di chiamarsi Ligresti o Don Verzè, se ti chiami Rossi, Sergio o Salvatore Esposito e vai in banca, il trattamento è un po' diverso. E poi ha aggiunto il governatore della Banca d'Italia, le banche sono chiamate a decisioni difficili, non far mancare finanza alle imprese solide, evitare di prolungare invece il sostegno a quelle senza prospettive. La nostra economia ha bisogno di intermediari e di mercati finanziari che allochino al meglio e al minor costo possibile il risparmio essi affidato. In questa fase le banche sono chiamate a decisioni difficili, non far mancare finanza alle imprese solide, evitare di prolungare il sostegno a quelle senza prospettive. È l'essenza della sana e prudente gestione. Anche dall'esito di queste scelte dipendono i tempi e l'intensità della ripresa della crescita. In Italia il debito delle imprese in rapporto al PIL non è dissimile da quello che caratterizza le altre principali economie dell'area dell'euro. Da noi è più elevato il peso dei prestiti bancari al settore produttivo, una differenza soltanto in parte spiegata dalla più elevata presenza di piccole e medie imprese. Molte aziende hanno nei prestiti bancari la fonte esclusiva di finanza esterna, pur con dimensioni e caratteristiche comparabili con quelle di imprese che in altri paesi raccolgono risorse direttamente sui mercati dei capitali. Sui bilanci delle banche ricade una parte molto ampia del rischio di attività di impresa, che nei periodi di recessione si traduce in crediti deteriorati, sofferenze, perdite, con gravi ripercussioni sull'offerta dei nuovi prestiti. Si tratta di costi elevati per gli intermediari e per l'economia. Allora, non male la battuta di un ascoltatore al 349-238-6666 che dice: no, aveva ragione lei, non doveva correggersi. Basta dare i soldi alle imprese solite, diamoli alle imprese solide. Sì, poi rispondo anche a altri sms. L'abbiamo detto più volte che dentro il CDA di Prem, fine finanziaria che controlla il gruppo Fondere Assai, c'era anche il figlio del senatore Ignazio La Russa, ma abbiamo parlato anche del figlio di chi dovrebbe vigilare il mondo delle assicurazioni. Abbiamo parlato dell'authority, so che è molto arrabbiato il presidente dell'ISVAP con noi, quando vuole intervenire. Suo figlio ha lavorato per Fondere Assai, se le sembra normale che lei, che deve vigilare sulle compagnie di assicurazioni, abbia un figlio che lavori per un vigilato che tra l'altro poi fa un buco da 1,3 miliardi, ce lo dica lei. Presidente Giannini, siamo qui, inutile che si arrabbi e ci faccia arrivare messaggi trasversali. Guido Gentili, titolarista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ti faccio ascoltare anche cosa ha detto il presidente dell'ABI, Mussari, sempre in tema di banche e imprese, poi passiamo alla cosa grossa che è Monti, che se la prende con i 20 anni di concertazione. Mussari ha detto: attenzione, le sofferenze, cioè i crediti che le banche non riescono più a riottenere, sono arrivate a 110 miliardi e dalle banche comunque stanno arrivando soldi per importanti operazioni di ricapitalizzazione. Il peggioramento delle condizioni del ciclo e la doppia recessione di cui siamo stati vittime hanno fortemente accresciuto le sofferenze bancarie. Quelle lorde hanno raggiunto nello scorso mese di maggio i 111 miliardi. In rapporto agli impieghi pesano ora per il 5,6%, con un picco pari al 10,5% per quanto riguarda gli impieghi alle famiglie produttrici. Le indispensabili riforme strutturali dei singoli paesi necessitano tempo per produrre i loro visibili effetti. Nel frattempo l'Europa deve porre in essere misure per comprare, per guadagnare questo tempo. A tal fine è positivo il giudizio che le banche italiane esprimono sugli esiti del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, ma è necessario dare prontamente attuazione a quelle misure. Un'adeguata capitalizzazione è condizione per poter mantenere stabile e accrescere il credito all'economia. Le banche italiane hanno avviato e portato a termine importanti operazioni di ricapitalizzazione. In proposito, però, pongo la questione sollevata dal documento conclusivo del 22° congresso dell'ACRI per ciò che concerne la valorizzazione delle quote della Banca d'Italia. Le banche italiane sono grate all'azione dell'autorità di vigilanza. Sono consce come la loro stabilità abbia contribuito fortemente a tale azione. Nello stesso tempo ritengono che l'autonomia della Banca d'Italia sia un bene pubblico primario e irrinunciabile. Ciò che chiediamo oggi è che si venga a capo di una situazione di cui da qualche tempo si discute, superando la previsione dell'articolo 19,10 della legge 262 del 2005, peraltro mai attuata. Ne trarrebbero benefici i patrimoni delle banche, aumenterebbe la nostra capacità di erogare credito, si porrebbe fine ad illazioni tanto infondate quanto pretestuose. E qui un passaggio che riguarda la partecipazione. Sapete che le banche italiane partecipano al capitale della Banca d'Italia. Mussari ha anche aggiunto che dal non un euro di potenziale liquidità per imprese e famiglie è stato sottratto all'economia reale, e poi ha detto che con la nuova moratoria varata dalle banche con le imprese, le banche hanno accolto 10.000 domande di sospensione per un ammontare di debito residuo pari a 3.600 milioni. Il passaggio invece sulla Germania, che a suo tempo fu aiutata quando sforò il tetto del deficit, adesso invece non vuole aiutare altri paesi, l'abbiamo già fatto sentire. Guido Gentili, un primo commento su Ignazio Visco da un lato e le banche dall'altro. Il governatore insomma ha detto basta con sti metodi in cui, no? L'ha detto in maniera molto chiara, prego. Il governatore lo ha detto in modo molto chiaro e ha ripercorso il sentiero che aveva già fatto con le considerazioni annuali a fine maggio. e quindi con parole severe anche nei confronti del sistema bancario e dei banchieri. Allora, ricordo, aveva messo l'accento anche sull'incrocio dei numerosi incarichi che riguardano le partecipazioni incrociate delle banche, e oggi è tornato a insistere invece sulla selezione del credito e sulla necessità che appunto in un sistema bancocentrico come quello italiano si punti adesso più che sul sistema delle relazioni e sul capitalismo di relazione che si è andato affermando in questi decenni, su una più rigorosa e credibile allocazione del credito. E quindi, secondo me, venendo incontro un po' alla battuta che ti ha fatto il nostro ascoltatore, dicendo che i prestiti si danno ai soldi noti, ma alle solide imprese. E credo che questo sia un messaggio molto chiaro. Esercizi profondi di concertazione nel passato hanno generato i mali contro i quali oggi noi lottiamo e a causa dei quali i nostri figli e nipoti oggi non trovano facilmente lavoro, proprio perché lo Stato interveniva in profondità a unire le parti saldando con il bilancio pubblico la differenza occorrente. E questo non può più avvenire, non solo perché ci sono vincoli europei, ma soprattutto perché abbiamo approfondito nella nostra coscienza collettiva il senso della responsabilità verso le generazioni future, che sono state sistematicamente e oggi sono generazioni che si affacciano al mercato del lavoro e non lo trovano, sono state sistematicamente danneggiate da questo modo di comporre i conflitti nel passato. Il che non significa che il conflitto sia una cosa in sé desiderabile, evidentemente. Ogni sforzo va compiuto per comporlo, ma comporlo con la profonda comprensione, e credo che i pubblici poteri abbiano un dovere didattico, di quali sono le conseguenze di soluzioni facili. Noi pensiamo essenziale che in un'economia e in una società moderna le parti sociali, rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori, abbiano ogni occasione per esprimere i propri punti di vista, debbano essere consultate dal governo, debbano far valere i propri legittimi interessi, ma pensiamo che sulla gran parte delle materie, in quanto coinvolgono interessi pubblici, le parti sociali debbano restare parti ed essere viste dalla società nel suo insieme come parti, parti vitali, parti importanti, ma non soggetti nei confronti dei quali il potere pubblico pratichi una specie di outsourcing delle responsabilità della politica economica. Apriti cielo, nel senso che, come era immaginabile, i sindacati si sono sentiti subito, davvero, chiamati in causa. Ha detto il leader della UIL, Angeletti, dovrebbe ringraziare Monti, la concertazione. Adesso riprendiamo le varie agenzie su questo. Durissima anche la leader della CGIL, Susanna Camusso. Monti quindi ha detto non solo che la concertazione è l'origine dei mali contro cui lottiamo, e quindi l'accordo con le parti sociali, ha detto che il debito si è creato perché questi accordi spesso erano antieconomici, quindi bisognava poi con i soldi pubblici finanziarli, vuoi le pensioni, vuoi gli accordi per il rinnovo del contratto del lavoro, e ha poi aggiunto: attenzione, le parti sociali hanno la loro importanza, sono parti importanti, ma non possiamo dare a loro in outsourcing le scelte politiche, quindi decidiamo noi. Era anche una difesa, secondo me, del percorso seguito dal governo sulla riforma del mercato del lavoro. Guido Gentili, questo è un Monti che si toglie qualche sassolino perché ha detto ieri che non si ricandida più, o è un Monti che, al di là di quello che ha detto ieri, si sta costruendo una, un profilo sempre più politico? Ma innanzitutto è il Monti che queste cose le ha sempre pensate. Ed è scritte anche, ha detto. Esatto, perché nel corso degli anni diversi interventi sono stati fatti dall'allora professor Monti, solo professor Monti, su questi temi e con delle dure critiche sulla concertazione fatta dalle parti sociali che veniva poi ripianata dallo Stato. Da Pantalone. E quindi a ciascuno il suo mestiere, le parti sociali fanno il loro mestiere e lo Stato e la politica fa il suo e quindi decide poi che cosa fare. E su questo non c'è dubbio, il Monti segue una linea precisa e sono inevitabili le polemiche perché le parti sociali spesso hanno travalicato anche storicamente i loro compiti e, come ripeto, è stato poi lo Stato a pagare. Lo Stato non se lo può più permettere questo e credo anche che sia giusto che ciascuno faccia il suo mestiere. Sì, poi molti ci chiedono al 349-238-6666 ma cosa fu la concertazione? Beh, fu quel meccanismo in cui si cercava di concertare, non so, la riforma delle pensioni, la riforma del pubblico impiego, gli aumenti del pubblico impiego, i modelli di contratto del lavoro, in modo che fossero, tra virgolette, tutti contenti, quindi datori di lavoro, Confindustria, Confagricoltura, Confesercenti, col diretti, Confcommercio e i sindacati che rappresentavano invece i lavoratori. La tesi di Monti, devo dire ampiamente condivisibile in alcuni casi, è che sì, per fare contenti tutti i soldi poi in parte doveva tirare fuori lo Stato, se possiamo andiamo a forzare l'analisi, e da lì l'aumento del debito pubblico. Va detto però, Guido, che la concertazione è stata, per non essere troppo manichè, è stata anche un elemento che ha permesso di abbassare molto le tensioni sociali dagli anni 90 in poi. Ci sono state delle fasi diverse storiche nel paese, ad esempio nel 92-93 quando ci fu entrò in funzione il governo Ciampi sull'onda di una crisi istituzionale senza precedenti e sull'orlo di un paese anche allora sull'orlo di un fallimento, fu utile una politica dei redditi concertata con le parti sociali in quel momento per raffreddare le tensioni inflazionistiche e raffreddare il conflitto sociale. E questo però, appunto, parliamo del 1993, oggi la situazione è completamente diversa e del resto nei primi anni 2000 ci fu una stagione in cui si parlava più che di concertazione ai tempi sostanzialmente del secondo governo Berlusconi, più di dialogo sociale che di concertazione, quindi di un elemento diciamo più dinamico di confronto e non più di blocco sociale che poi si scaricava sui conti pubblici. Ecco, un'ultima analisi te la chiederei sulle parole di Monti invece che abbiamo fatto sentire in apertura del programma, cioè l'Italia sta intraprendendo un percorso di guerra, citando un fronte esterno, l'immagine spesso stereotipata che ci attribuiscono i nostri partner stranieri, ma anche i danni che ci siamo fatti da soli nella nostra immagine, e poi però sul fronte interno tutte le resistenze che sta trovando. Secondo te Monti sente bisogno di ritirare e rinserrare le fila perché si avvicina marzo e vediamo già cosa sta capitando sul fronte politico? Beh, certamente lui sente la necessità di serrare le fila e vuole che la politica in qualche modo prenda atto di questa situazione di emergenza che permane e che quindi si comporti di conseguenza. Le tensioni sono forti, come sappiamo, già si parla del dopo Monti, in Europa si chiedono effettivamente cosa accadrà dopo il voto della primavera del 2013 e quindi è naturale che ci si ponga un problema di questo genere ed è significativo il fatto, secondo me, che Monti abbia usato la parola guerra, è una parola che pesa, che non può essere usata con leggerezza, però di questo si tratta, guerra anche all'interno, nel mondo, per cercare di resistere sui mercati, ma anche in Europa, perché gran parte dei nostri problemi, va detto, stanno in Europa e nelle mancate decisioni che l'Europa prende. Con quella che Monti ha definito oggi una tela di Penelope per arrivare finalmente poi alla decisione conclusiva. E poi c'è la guerra interna, le resistenze, le lobby, le abbiamo viste all'opera. i potentati, i gruppi di interesse, i partiti che non vogliono cambiare, ma ormai è tardi nel senso dire del programma. Dovevo parlare di petrolio, sì, avete ragione, lo facciamo domani, oggi non ci siamo stati dentro, prometto che domani parleremo di petrolio. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Il Focus Economia torna domani alle 17 in poi, come sempre da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata.